America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Natural gas has been the ugly stepchild of our national energy debate. But that's changing. Leslie Stahl, CBS 60 Minutes, qualche tempo fa ricordava come in America c'era un figlio povero nel contesto energetico ed era il gas, il petrolio, il carbone erano i figli prediletti, l'energia solare, quella eolica erano i figli che facevano sognare, invece il gas naturale, poveretto, non aveva grandi fortune, fino a che non si è scoperto qualche anno fa il shale gas, questo gas che è infiltrato fra le rocce e c'è una tecnica particolare, quella del fracking, che consente di estrarre questo gas immettendo dei getti d'acqua a forte pressione. Ecco, il risultato qual è? Che oggi l'America è indipendente dal punto di vista energetico. In the last few years we've discovered the equivalent of two Saudi Arabias of oil in the form of natural gas in the United States. Aubrey McLennan è l'amministratore delegato della Chesapeake Energy e dice che l'America ha scoperto l'equivalente di due Arabie Saudite dal punto di vista del petrolio in gas naturale. Ci sono giacimenti di gas naturale che possono essere estratti con questo nuovo metodo un po' dappertutto nel territorio. Ed è una cosa naturalmente che non soltanto dà autonomia energetica agli Stati Uniti, ma che porta straordinaria fortuna anche a quell'agricoltore casuale che si trova su un campo dove nel sottosuolo ci sono poi queste straordinarie risorse. And if you're sitting on top of it, you may become a new American phenomenon, a shaleyonaire. I've got a copy of the check here. Oh my, look at that. $434,000. Just like that. It fell out of the sky. Sono gli shaleyonaires, di nuovo Leslie Stahl, che li definisce i miliardari, i milionari dello shale gas, i shaleyonaires, e avete sentito uno di questi agricoltori con un forte accento del sud che dice: ma ho incassato $434,000, sono letteralmente piovuti dal cielo. Il fratello nel campo vicino di milioni di dollari ne ha incassati due. You have probably heard about the natural gas boom, right? Everyone's heard about it. Un boom che potrà durare decenni, è questo che dice il giornalista del Wall Street Journal in un video che riprende uno studio dell'Alfred Sloan Foundation che ha esaminato 15.000 pozzi nella Barnett Shale Formation nel Texas settentrionale. È uno dei primi studi a esaminare nel dettaglio l'impatto geologico ed economico dell'estrazione di shale gas con il fracking, e la conclusione è che l'America ha davanti a sé decenni di boom. Scott Tinker, uno degli autori di questo studio, dice che nei prossimi 30 anni ci sarà un vero e proprio boom energetico, un rinascimento energetico, gli Stati Uniti diventeranno autonomi dal punto di vista dell'approvvigionamento. Ci sono chiaramente dei rischi impliciti nello sfruttamento di questi shale gas, ma ci sono anche molte opportunità. Lo studio conclude che l'equilibrio fra sicurezza geologica e ritorno economico è evidente. Ecco, la domanda è: dove siamo in Europa? Con me ai microfoni di America 24 Giuseppe Recchi, presidente dell'ENI, che si è molto occupato di queste cose, che proprio qui negli Stati Uniti, per dialogare sull'esperimento americano e capire fino a che punto alcune di queste esperienze potranno essere riportate in Europa. Buongiorno Recchi. Buongiorno, grazie. Perché l'America è avanti e noi siamo indietro? Perché mi sembra che in teoria lo avremmo anche noi in Europa, lo shale gas, cioè la possibilità di sfruttare giacimenti di gas attraverso queste nuove tecnologie. I pronostici dell'Europa sono in teoria molto positivi, perché l'Europa siede su grandi riserve di shale gas. Il tema è che ha delle condizioni diverse di sviluppo. Il primo, la sua volume di fuoco, cioè ci sono 50 oil rigs presenti in Europa rispetto ai 2000 che erano presenti negli Stati Uniti, che derivavano dall'industria del petrolio che stava diminuendo, che furono convertiti per l'estrazione dello shale gas. Quindi dovessimo anche cominciare domani ci metteremo un po' di più. Ma poi c'è un grande problema normativo: il diritto del sottosuolo in America è di proprietà del padrone del terreno. Questo fa sì che il padrone del terreno è il primo interessato a sviluppare la possibilità di estrarre il gas. In Europa non è così, e per cui c'è un conflitto di interesse nel padrone del terreno europeo, che si vede quasi espropriato della sua attività per andare a prendere una cosa che non gli appartiene. Ecco, devo dire, questa è una delle cose che mi colpisce di più di quello che ci racconta, perché abbiamo visto che in America ci sono invece gli shillionaires, però ecco, ci sono anche delle altre ragioni, ci sono anche delle ragioni strategiche, insomma, sono importanti per noi o no? Quali sono altri motivi? Un altro motivo è la differenza di difficoltà tecnologica dovuta alla geologia, ma il vero grande motivo è la differenza di percezione della sicurezza e indipendenza energetica. Per l'America è un fattore di estrema importanza, ci si gioca la sua geopolitica internazionale, per l'Europa meno. Siamo diversificati dal punto di vista delle fonti di approvvigionamento dei fornitori, perché prendiamo gas dall'Algeria, dalla Norvegia, dalla Libia e dalla Russia. L'America era più isolata e prendeva le sue risorse petrolifere dall'Arabia Saudita, da paesi più complicati. Diciamo, c'è molto da fare, ci vorrà un po' di più, ma è un'occasione che non si può perdere. Le capacità di produzione domestica del tradizionale diminuiranno, e per cui lo shale gas è una straordinaria opportunità per l'Europa di giocarsi la sua competitività industriale. Ecco, ci vorrà quanto, diciamo così, un'idea, e che cosa si può fare per sensibilizzare non solo l'opinione pubblica europea ma anche i politici europei a cercare di accelerare? Come sempre è una questione di stabilire la propria strategia, la strategia industriale e la strategia energetica. Quello che uno auspica è che ci sia un mercato quanto più integrato possibile, con prezzi quanto più livellati possibili. Oggi viviamo delle anomalie di mercato con prezzi del gas, quello che si dice spot, cioè prezzi al consumo, proprio al mercato di borsa, che sono molto più bassi dei prezzi che vennero stabiliti tempo fa, dei famosi contratti take or pay, che sono prezzi legati al prezzo del petrolio, che vennero costruiti in quel modo proprio per garantire una remunerazione degli investimenti nelle infrastrutture che servono a muovere il gas, che sono grandi investimenti che durano lungo nel tempo, e per cui si fecero dei prezzi che si legassero al prezzo del petrolio in modo tale da non creare rischi sul ritorno di queste operazioni. Ma il tema vero europeo è diverso. Il tema europeo è che non siamo un mercato omogeneo dal punto di vista legislativo e viviamo ancora, forse perché non abbiamo la percezione della importanza di questa risorsa, una scarsa voglia di cogliere le opportunità. Le faccio un esempio. L'Italia oggi è un produttore di petrolio, produce circa 200.000 barili di petrolio, potrebbe raddoppiare questa produzione e invece non lo fa per una serie di problematiche legate alla sindrome NIMBY, not in my backyard. Cosa perde l'Italia non facendo così? E le assicuro che si può fare in sicurezza e con rispetto dell'ambiente. Perde 2 miliardi e mezzo di royalties all'anno che potrebbe incassare, perde circa 15 miliardi in 4-5 anni di valore di investimenti per progetti. Ci sono già 88 progetti pronti per l'esplorazione che sono fermi, e perde soprattutto la capacità di creare posti di lavoro e di sfruttare risorse su cui siede. Allora mi chiedo se sono cose che ci si può permettere, non si può invece arrivare a costruire una volontà del fare che vale poi per tutti i settori industriali. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @ Mario Platero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. 5 marzo 1963, una tragedia per la musica americana. Di ritorno da un concerto di beneficenza a Kansas City precipita un aereo. In questo aereo ci sono Horseshoe Hawkins, Cowboy Coppas e Patsy Cline, uno dei grandi idoli della musica americana. Morirono in questo incidente. A 50 anni dalla loro scomparsa, in quei giorni, appunto a partire da marzo, la città dedica loro un tributo con 4 giorni di festival. E così io ho scelto di dedicare la canzone di oggi a Patsy Cline, che adoro, per me è una delle migliori cantanti americane, e vi propongo una delle sue canzoni più belle, Crazy. Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going.